good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte. Per me è sempre un piacere essere qui di nuovo con voi. Quella che state per ascoltare è la nostra 203esima trasmissione ed io sono Caterina. Come immagino voi abbiate avuto modo di capire, le strutturazioni delle nostre trasmissioni hanno avuto da un po' di tempo una caratterizzazione ben precisa. Infatti abbiamo deciso di alternare ben due distinte tipologie di trasmissione. Una prima forma prevede un palinsesto vario. Cosa vuol dire questo? Significa trasmissioni che al loro interno possono affrontare più tematiche nella stessa serata. L'altra tipologia invece prevede trasmissioni come quella di stasera che noi abbiamo chiamato monotematiche. Questo vuol dire che affrontiamo un argomento alla volta cercando di renderlo più chiaro ed espresso, cercando di esaminare meglio tutte le sfaccettature e cercando di rendere il tutto più esplicito. Per capirci meglio, gli argomenti di tutte le trasmissioni hanno chiaramente un interesse preminente e prioritario per il mondo lesbico, ma varia la modalità di affrontare gli argomenti. Se da una parte, ad esempio, analizziamo ciò che il mondo dice di noi, dall'altra specifichiamo il nostro occhio sul mondo, oppure possiamo fare una vasta carrellata di tutto quello che si muove all'interno della realtà lesbica e possiamo nel contempo approfondire e rendere leggibile la nostra posizione, nostra intendo chiaramente del coordinamento lesbiche romane. Possiamo recensire tutto ciò che viene pubblicato, che parla di noi e contestualmente approfondire alcuni aspetti dialogando con chi, parlando di se stessa, riferisce al mondo di noi. Ecco, stasera è appunto una di quelle trasmissioni con le quali, attraverso una lunga intervista, ci piace immaginare di rendere leggibili alcuni aspetti della nostra realtà e per farlo abbiamo chiamato Monica Maggi. Buonasera Monica. Buonasera. Che tra poco farà questa lunga chiacchierata con noi. In questa trasmissione però non mancheranno, come di consueto, gli appuntamenti e tanta buona musica. Allora, se mi date 2 secondi di tempo prima che io mi impicci definitivamente con il mixer, cerco una canzone e metterò una bellissima musica. Beh, per cominciare bene io direi di mettere A Natural Woman, cantata però questa volta da Celine Dion. Your kiss helped me. Cause if I make you happy, I don't need to do more. Cause you make me free. You make me free. You make me feel like a natural Allora, dunque, cominciamo la nostra lunga intervista e ringraziamo nuovamente Monica per aver accettato di intervenire a questa nostra trasmissione. Se mi permetti, mi farebbe piacere dire due parole per presentarti. Per farlo voglio utilizzare due modalità. La prima è quella stampata che si può leggere sul tuo libro, la seconda invece è una presentazione che mi sento di fare attraverso una mia personale conoscenza diretta. Cominciamo da ciò che su di te c'è scritto sull'ultimo tuo libro di poesie, del quale spero ci leggerai qualcosa qui stasera. Certo. E quindi cito testualmente: dopo anni di smarrimento ho deciso di fare una scrittura, di fare della scrittura la sua vita ed il suo pane, poco distante da Roma la sua casa, nelle parole il suo mondo, grandi amori, la musica, i profumi speziati, la cucina, prossimi progetti, il teatro e il cinema. Difetti dicono che sia incostante, ma lei si difende dicendo che è solo inquietudine creativa dell'anima. Allora Monica, ti riconosci in tutto questo? Sì, ci ho pensato molto prima di scrivere queste righe di me, però in realtà è la mia fotografia. Certo, l'ultima riga fa sorridere perché mi dicono tutti che sono incostante e ho combattuto per anni contro questa cosa pensando che fosse qualcosa da cambiare, da cancellare, da modificare. In realtà è la base della mia creatività, quindi sono una persona lunatica, sono una donna, voglio dire, non sono una santa, ecco. Sì, posso confermarlo. Quindi sì, mi ritrovo molto, mi ritrovo anche nella scelta sofferta citata all'inizio, che sembra una battuta, nella scelta sofferta di dedicarmi completamente alla scrittura, dandole il posto che merita, quindi non di hobby, non di qualcosa da fare nel tempo libero, ma qualcosa di cui veramente vivere, di cui andare fiera e di spingere, perché soprattutto io ci creda il più possibile prima degli altri. Certo, certo. E questo ha significato qualche rinuncia ad altri campi o è stato comunque un ritrovare te stessa in pieno? È stata la rinuncia sicuramente a un certo tipo di benessere, proprio parliamo concretamente, un certo tipo di benessere e un certo tipo di comodità, appoggiarsi magari a qualcun altro o immaginare di poterlo fare. Certo. Quindi certo. Essere mantenuta. Ho voluto dare alla scrittura la dignità che merita, cioè è un mestiere, è un lavoro e va fatto veramente con serietà e con impegno. E il fatto che poi io sia una donna mi stava penalizzando ulteriormente. Già la scrittura sembra un hobby. Noi donne che scriviamo, capito, sembriamo delle, diciamo, un po' strane, un po' viziate, a volte anche un po' isteriche, capito? Abbiamo sempre bisogno di scrivere per sfogarci. No, la scrittura è un lavoro, quindi questo è vero. Io finalmente l'ho capito è comunque ancora oggi faticoso, sono 15 anni più o meno che lo faccio, ma è molto faticoso. Beh, se ti può consolare ti posso dire che io sono molto contenta che tu abbia fatto questa scelta, perché quello che scrivi a me piace molto, quindi... Grazie. Figurati, io adesso però, visto che c'è stata questa dichiarazione tua, volevo invece passare alla presentazione che voglio fare io. Di te, chiaramente. Dunque, noi del CLR abbiamo conosciuto Monica qualche anno fa e almeno per quel che mi riguarda c'è stata una simpatia immediata. Confermo, anche da parte mia. mi piaceva di lei il fatto che non facesse assolutamente mistero degli stati d'animo che aveva provato e che continuava a provare, ma soprattutto mi piaceva la serenità con la quale reagiva all'incognita, questa sua volontà di continuare a provare tutto senza esclusioni, questo suo essere presente, tanto presente da renderlo leggibile. Ricordo che all'inizio, per un breve periodo, ci siamo scambiate delle email e che in una di queste Monica mi fece dono di un suo scritto nel quale raccontava se stessa. Era una sorta di pensieri e parole, un racconto di lei ieri che passava attraverso il suo io oggi. L'ho costretta a leggerlo con me qui alla radio e ricordo ancora la sua emozione, perché lei in realtà faceva finta di essere molto tranquilla e serena, ma io vedevo che era sono una donna da palcoscenico, esatto, attraversata da un'ondata di emozioni. Peccato, veramente peccato che la radio non sia a colori. Dunque, e anche adesso mi piace l'idea di lasciar parlare le sue emozioni, quindi scusa Monica, ma io ti leggo nuovamente. Va bene. Dunque, hai scritto quanto tra poco leggerò per la seconda volta qui a questi microfoni, poco prima della tua prima collaborazione con noi del CLR e, se non ricordo male, era in occasione dell'iniziativa di Santa Valentina del 2005. Esatto. Allora, adesso ti rileggo. Mi ricordo quando mettevo da parte i ritagli inspiegabili di giornali, che li piegavo e ripiegavo e li serravo tra le pagine dei miei libri di scuola o di quelli che stavo leggendo. Mi ricordo delle note a margine che scrivevo, con la matita preferibilmente, incolonnate verticali sulla sinistra o sulla destra della pagina. Ricordo anche la strada che facevo per arrivare a scuola, il liceo classico che frequentavo con vera devozione per le figure che stavo studiando. Mi ricordo così tanto quella strada e il percorso e la sensazione che provavo, passo dopo passo, piede dopo piede, che ancora oggi me la risogno spesso, di notte, vivida e a colori. A quei ricordi puntuali e inesorabili io oggi chiedo: perché siete tornati? E soprattutto, perché siete tornati a vivere? Cosa volete dirmi? La mia timidezza era abissale. Mascherandola bene, come si fa con il cerone prima di una recita, ne usciva un'arroganza e una spavalderia incredibile anche per me. Ma funzionava, e come se funzionava. Ero così puntualmente in capo alla fila, all'inizio di ogni progetto, portatrice di ogni istanza. Io ho tutto un mio metodo per capovolgere la timidezza in sfrontataggine quando salgo su un palco. La rivolgo come si farebbe con un calzino e la indosso. E sta a pennello. E così ho fatto anche stasera, che mi sentivo sotto la luce di una lampadina, di tante candele, di occhi curiosi, del tuo sguardo. Attraverso barcollante lo spazio dello scalino ci sono. Il legno scricchiola, prendo il microfono e mi innamoro della mia voce. C'è chi ha creduto in me e non posso deludere adesso. Ci sono tante donne, ci sono i loro vissuti, ci sono le loro strade, ci sono i miei ricordi. Allora Monica, le emozioni per leggere questa cosa sono sempre grandissime. Anche per me, devo dire. Volevo semplicemente a questo punto, visto che parli di ricordi, chiederti quanto sono importanti per te i ricordi. Sono fondamentali. Tra l'altro io sono veramente ossessionata in senso buono, dai ricordi, dai segni, dalle impronte. Tant'è vero che questo mio secondo libro, che è veramente una pietra miliare della mia vita, l'ho chiamato Calco. Calco è un ricordo fortissimo, indelebile, appunto un'impronta, un segno. I ricordi per me sono fondamentali. L'importante è che non diventino dei fossili, nel senso che continuino a raccontarci e a dirci qualcosa. Se diventano qualcosa di inanimato, di pesante, se diventano una zavorra, meglio buttarli da qualche altra parte. Ma il ricordo è vivo, cioè io stasera esco, vado a mangiare qualcosa e ho il ricordo di te e di questa trasmissione e si somma a tutti gli altri avuti finora. Certo, guarda, stai parlando con una che è fermamente convinta che ognuno di noi sia il risultato della propria storia, però per poter essere così come siamo e andare avanti dobbiamo necessariamente tener conto del nostro passato, perché tutto ci può dare le basi per andare avanti, tutto, veramente tutto, quindi è importante ricordare. Il ricordo è buono, è costruttivo, è positivo quando diventa memoria. Certo. E quindi può essere utilizzato. Se è qualcosa che appunto appesantisce, anche quelli che fanno male vanno bene, basta che diventino memoria e che siano costruttivi. Assolutamente sì. Senti, io mi dispiace interrompere questa chiacchierata, ma noi abbiamo delle esigenze tecniche. I tempi. No. E ci hanno sempre accusato di parlare troppo e far ascoltare poca musica. Quindi io, ma le donne ci ascoltano, no? Sì, assolutamente sì, però se sentiamo un po' di musica non guasta, penso, no? Sì. Allora, io pensavo di mettere Leanne Rimes con il brano But I Love You. Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata. C'è un'altra cosa che mi piace sottolineare, perché dopo le due iniziative che abbiamo fatto insieme al Centro Femminista Separatista, con Monica, chiaramente. A noi del DCLR sono arrivate alcune lamentele, pochissime a dire il vero, rispetto al fatto di aver avuto una collaborazione proprio con te, Monica. Tranquilla, ora ti spiego di che cosa si tratta. Le mail arrivate erano di diverso tipo, cito le più simpatiche. Una lamentava, come dire, la mancata rivendicazione della denominazione di origine controllata. Okay. No, non sto scherzando, per una donna che ci ha scritto non eri sufficientemente doc. Comunque non ti preoccupare, Monica, no, mettiamola così, guarda, non lo sono neanch'io, va bene. L'altra lamentela invece riguardava l'imprecisione da parte nostra nello scrivere la presentazione che all'epoca abbiamo fatto di te. Ci rimproverava, ad esempio, di averti definita una giornalista. Sono una che lavora con le parole, va esatto, bene. Va bene, abbiamo osato troppo. A questo proposito mi viene particolarmente da ridere, perché forse qualcuna, probabilmente una iscritta all'albo e mai stata invitata da noi, si è sentita piccata per questa nostra dimenticanza nei suoi confronti, chissà, forse poteva dare nome e cognome, avreste invitato esatto. anche lei. Non okay. è detto, non è detto, perché noi ci basiamo su altro. Infatti, a parte gli scherzi, a parte il fatto che noi non abbiamo mai chiesto referenze a nessuna, a parte il fatto che noi non cerchiamo solo donne accreditate, anzi, tutto sommato cerchiamo forse le espressioni quelle più pure, più naturali che ci sono. A parte il fatto che ci interessa principalmente quanto le donne riescono a provare, e se poi hanno pure la voglia di condividerlo con noi, ci fa enormemente piacere. Ma a parte tutto questo, significa che i nostri criteri, quelli che ci portano a cercare collaborazione, sono altri. Sì, infatti, no? Infatti. E si basano poi su una riscontrabile capacità, su una forma tangibile di empatia, sulla voglia e su una disponibilità condivisa. Per noi, per esempio, è sempre stato significativo che tu pubblicassi ciò che scrivi tu, cioè certo. che non usavi pseudonimi. Mai nascondermi, esatto, mai e che in sostanza mettevi in gioco il tuo nome e la tua faccia, cosa che già è questo di per sé è ammirevole, anche perché ci sono, come dire, persone accreditate, lo possiamo dire, che non fanno così, pubblicano ciò che scrive altri e poi dicono di aver scritto un libro, esatto. per esempio. Esatto. No? Okay. Non facciamo nomi. Assolutamente no. E quindi a questo punto ti chiedo, se ne hai voglia, di parlarci un po' del tuo nuovo libro, e sempre, se ne hai voglia, magari di leggerci pure qualcosa. Prima però che tu risponda, permettimi di comunicarti che il titolo del tuo libro, Calco, trovo sia molto bello, anche perché tu l'hai accennato sì, poco prima, cioè sì. per me rispecchia un po' le cose di cui parlavamo poc'anzi. Il calco mi fa venire in mente qualcosa in grado di riproporre esattamente ciò che è stato utilizzato per crearlo, qualcosa che rispecchia fedelmente la realtà. Penso ad esempio al calco della chiave o al calco della mano, della faccia. Ed intitolare quindi una raccolta di poesie con un titolo del genere mi dà la garanzia che all'interno posso trovarci Monica, sì, no? Con la sua sì. storia, con i suoi ricordi e con tutto quello che appartiene a lei. Assolutamente, o sbaglio? È proprio così. Vorrei sì parlare di calco. Prima però spezzo una lancia a favore del coordinamento lesbico romano, femministe e separatiste, com'è tutto insieme, tutto uno di seguito all'altro. Sì, centro femminista separatista. Allora, io dopo avervi conosciute, adesso non perché Caterina è qui di fronte a me, ma dopo avervi conosciute, sono tornata a casa dicendo: ma che separatiste? Voi non siete separatiste, nel senso, sì, ok, siete separatiste, ma siete le persone più... siete riuscite più, ma ne ho conosciute tante e tanti tentativi ho fatto anche di capire me stessa attraverso gli altri, le persone che più mi hanno accolto, più mi hanno abbracciato, più mi hanno fatto sentire a casa mia, meno proprio assolutamente separatiste di che? Forse per altre idee, altre ideologie, umanamente persone che uniscono e che aggregano, quindi e aggregano tutte le altre donne, anche quelle che non vanno in giro con l'etichetta, posso citare esatto, questa parola certo, di lesbica sulla maglietta. Tra l'altro io sostengo da sempre, e non lo dico per comodo mio, che ogni donna dovrebbe essere lesbica proprio per dovere, nel senso che la storia ci insegna che sono state loro che hanno difeso poi i diritti delle donne, soprattutto da sempre. E allora io mi ritengo lesbica nella misura in cui amo le altre donne, mi batto per difendere i loro diritti. La mia vita privata non credo che interessi molto. Se diventa un fatto politico, esatto, se diventa esatto, un fatto politico, esatto. Sì, io sono profondamente innamorata di una persona, è una donna che mi ha aiutato moltissimo nello scrivere questo libro, quindi certo. Sono lesbica. Caterina, sono lesbica. No, non lo so, comunque questo è il libro della mia vita, è il calco, perché il calco ha una duplice funzione, lascia uscire una parte nuova, mm-hmm. quindi la chiave, la mano, il volto, eccetera, che va e vive, ma conserva la parte vecchia, che certo. è il calco, cioè la forma. La matrice. Esatto, la matrice. Quindi qui dentro sì, ci sono io, c'è anche lei, c'è questa donna meravigliosa, c'è anche diciamo una nuova parte della mia vita, che poi è la parte vecchia in realtà, certo. è la parte che è diventata nuova semplicemente perché è venuta alla luce, quindi certo. è questo che serve. Ed è un libro pieno di vita. Il primo libro, La mia pelle è un cifrario, era il libro della morte di un amore, quindi una specie di funerale, di lutto di questo amore. Questo è un libro pieno di vita, è la vita di un amore, è la mia vita. Stai. Caterina è assorta. No, scusami, perché è arrivato. È arrivato un messaggio. Lo leggiamo a voce alta oppure non certo. si può? È la giornalista di prima che ha detto non mi avete invitato. No, soltanto che ne sono arrivati due, non so se è un messaggio, io comunque lo leggo. E come si fa quando si perde la memory card? Non è quello che succede, per esempio, quando si è innamorate? Quando ti svegli è troppo tardi. Questo è, forse c'è un altro pezzo di messaggio, cioè quando dice manca parte del messaggio. Esatto, un attimo che provo a vedere se ci sta o l'inizio o il proseguo, scusate, non volevo disturbare. Quello che mi sta chiedendo è: ma la memoria quando uno è innamorato che fine fa? Probabilmente sì, e serve. Ah, ecco, grande Monica. Ecco, questo era il proseguo. Grazie chiunque tu sia. La memoria serve. E serve per viverlo in pieno, certo. probabilmente per non commettere gli stessi sbagli, per farne altri. Di altri, di tutto, di più. Esatto. Quindi la memoria serve sempre. Siamo fatti di memoria, le donne sono memoria. Certo. E, anzi, noi dobbiamo, visto che c'è l'altra metà della terra, che sono gli uomini, noi altra metà del cielo, noi la dobbiamo, ma noi riusciamo a conservarla meglio, noi raccontiamo. Certo, ma infatti scriviamo. Le donne sono così ricche proprio perché hanno la capacità di mantenere vivi i ricordi, di non dimenticare mai e di partire da quello. Le certo. più grandi raccontatrici di storie erano certo. donne, Scheherazade, certo. L'Emilia una notte, ma anche le stesse donne che mettono a dormire i bambini cantano le storie certo, inventate. Certo, c'è tutta una cultura orale che da sempre è viene nostra. Trasmessa attraverso il sapere delle donne. Scusate, certo. ma è nostra, Certo. No, non mi dispiace leggere. Caterina stava dicendo ti dispiacerebbe. No, perché ho visto che hai chiuso il libro e l'hai messo via. Temevo che tu lo volessi abbandonare. Mi farebbe molto piacere che tu leggessi qualcosa. Allora, calco. Il titolo, devo ringraziare la casa editrice che ha dato questo titolo, azzeccatissimo. All'inizio era un calco di stagioni, ho detto è lungo, allora l'ha detto solo calco. Azzeccatissimo davvero. Di questo cielo, di tutto, di te che mi sei croce del sud, del sapore d'amore, di inevitabile e folle tempo, sono intrisa. Di poesia che costruisco, amore, so spiegarti poco. Afferro fili di globi colorati, trasformo in mongolfiere pensieri. Volo, sì, è vero, io volo. Impararti a memoria, per riprenderti in espansione quando apri il ventaglio dell'anima e parli. Ho quasi 50 anni, la bellezza, se c'era, se n'è andata ironica, lasciando particelle odorose spruzzate dovunque. La vita fa padrona di casa, inquieta e metodica. Da lei trasloco sempre con meno bagaglio. E ne volevo leggere una. Oddio, perché ne vorrei leggere tutte. Non è so diventata il tempo. Rossa, ve lo posso dire che è diventata rossa. Ce n'è una, devo dire la verità, ce ne sono due veramente. Una che è proprio me quando vado a trovare la persona che amo. e me la sono detta dentro mentre lo facevo. Dove vai, mi dico, saltando le scale con il fiato in gola? Ad amare vado, ad annusare un respiro, a riprendere e a lasciare andare. E un'altra... Ma dacci il tempo di digerirle, perché sono bellissime. Mi possono scrivere però le persone che ascoltano. Voglia, allora dai. Io ho un sito personale, banalissimo, ma è monicamaggi.it, e mi potete scrivere attraverso il sito e chiedermi di questo libro. Ce n'è una bellissima, Caterina, che volevo leggere. Tra l'altro questo libro è arricchito di splendide immagini di nudi femminili. Sono delle rielaborazioni grafiche in bianco e nero che si diffondono da una pagina all'altra, e c'è una poesia che leggono quelli che sfogliano il libro, e che è fulminante, perché è quella che più mi rappresenta e rappresenta quest'amore. Se non sei tra le ombre che mi vestono, le mie mani sono vuote. Caterina, ne vuoi leggere una tu? No, io adesso faccio morire di invidia tutte quante, perché io so, cioè, che questo libro che stai leggendo ha una dedica che tu hai fatto personalmente a me. Sì. Non te lo do neanche se muori, me lo riporto a casa, è mio, e io sono una delle poche che avrà tra l'altro questo libro. Questo libro da pochi giorni fa è arrivato a Durazzo, Albania. È stato letto in lingua originale e poi tradotto simultaneamente in albanese. Grande. Ed è stato il libro che ha rappresentato l'Italia in una rassegna internazionale di poesia, dove io rappresentavo piccina l'Italia nei 21 paesi di tutto il mondo presenti in quel momento. Quindi Calco era lì e ha fatto il suo debutto a Durazzo, quindi è stato... Senti, io non è che voglio mettermi in competizione con Durazzo, no, però io al CLR ci vengo. Esatto, noi possiamo ci vengo, possiamo presto ipotizzare magari una serata dopo. Sì. Le vacanze, insomma. Sì. Quando alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Sì. Perché... tra l'altro voglio tornare, perché l'atmosfera da voi è unica, quindi ripeto, mi avete accolto come nessun altro gruppo, anche dichiaratamente lesbico, femminile, femminista, politicizzato, mi ha mai accolto, quindi questo mi rimarrà nella memoria, appunto. Ottimo, senti, io direi di lasciarci con una canzone, e siccome tu avevi detto prima di non essere una santa, io no. Ho qui una canzone di Daido che si intitola No Angel, chiaramente. Gave me just a coin for every time we say goodbye. Will I be rich beyond my dreams? I'm sorry for my weary life. I know I'm not perfect, but I can smile, and I hope that you see Allora è arrivato un messaggio che giustamente ci richiedeva come poter raggiungerti via posta elettronica. Esatto, se vuoi ridirlo. Allora, monicamaggi.it è il mio sito, ovviamente prima www.monicamaggi.it, e lì c'è una scrittina piccola, scrivimi, clicca là sopra e si apre direttamente l'email. È diventata proprio tecnologica questa donna, non c'è niente. Please don't. Grazie ancora Monica. Caterina, tu riesci a creare come un vecchio spot televisivo un'atmosfera che... Wow, me la rivendo, adesso la registro, ogni tanto la rimando come messaggio subliminale. Sì, io riesco proprio a sentirmi a casa mia. Ottimo, benissimo. Allora, noi continuiamo, vi ricordiamo, ecco, mi è emozionato, mi sto impappinando pure io. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno dello spazio autogestito femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87-900 MHz. Rammentiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo tutte le donne che ci accompagnano ascoltando la radio Onda Rossa e la nostra trasmissione, rendendo possibile così la prosecuzione della nostra avventura dietro questi liberi microfoni. Se ci state ascoltando via internet ci farebbe piacere sapere da dove. Potete però anche soltanto dare un piccolissimo riscontro della vostra presenza facendo il graditissimo trillino. Basta far squillare il telefono di Radio Onda Rossa, componendolo 06 49 17 50, lasciar squillare una sola volta e poi riagganciare. Noi capiremo che ci siete, perché ogni volta che si chiama qui la radio, nella sala regia sul mixer si accende una luce verde. Credeteci, è piacevolissimo sapere che ci siete e che ci state ascoltando. L'altro mezzo che avete è quello degli SMS, per cui ripetiamo il cellulare 338-41-46682, e ancora, se le cose che avete da dirci sono molte, potete inviarci una mail all'indirizzo di posta elettronica, che è contatti@clrbp.it, oppure potete inviarci un fax allo 0668-64201, e ancora, per gli amanti della carta, potete scriverci una lettera indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Ripetiamo anche il telefono della radio, di nuovo, che è 06 49 17 50, ed il nostro cellulare 338 41 46 682. Monica, vuoi ancora ridire il tuo sito, così almeno... www.monicamaggi.it. Allora, grazie per i trillini, ne stanno arrivando parecchi, grazie per tutte quelle che ci hanno scritto messaggi. E adesso ascoltiamo un brano musicale, non lo so che c'è, lo mando a sorpresa, poi leggo che cos'è, ok? So natural, the way you run your fingers through my head. It's so natural, the way you make me feel like I'm a lady. Natural, ooh, the way you care. It's so natural. When I feel low, you pull me higher, you warm me up, set me on fire. Well, there's no way in this world I could ever be without you. To come over and give me hungry kisses of love, of love, of love. So true. And there's no way in this world I could It's so natural the way you touch me. So natural the way you run your fingers through my head. It's so natural you make me feel like I'm a lady. Natural. Very soul, pull me closer so I won't feel the cold. Just love, love, your love, so true. And there's no way in this world I could ever be without you. Allora, tra le mail che ci sono arrivate che parlano di appuntamenti, vogliamo segnalare quello di Fuoricampo, che invita alla quinta edizione del Modo Raduno Nazionale Solo Donne a Bologna 26-27 maggio e si chiama Fuoricampo in Moto Raduno e non solo. Tour tra la Romagna e la Toscana è un'iniziativa che piace sempre di più e anche a noi del gruppo Sport di Fuoricampo ci divertiamo sempre molto ad organizzarla. In questa quinta edizione faremo un tour tra la Vallata del Senio, l'Appennino Faentino fino a toccare la Toscana. Visiteremo siti interessanti come la storica Brisighella, Castel del Rio e alloggeremo nell'incantevole borgo medievale Palazzuolo sul Senio. Pernotteremo in un albergo a 3 stelle dove si gusterà un'ottima cena con prodotti tipici del luogo. Per quanto riguarda la serata sarà tutta da scoprire. Puoi partecipare con qualsiasi tipo di moto ma anche con una macchina, la formula rimane quella degli altri Fuoricampo in moto. Un percorso per le motocicliste e delle belle escursioni per le auto munite. La zona che abbiamo scelto è veramente molto bella per passeggiare e rilassarsi in mezzo alla natura. Invitiamo quindi anche le non centaure ad unirsi a noi. La quota di iscrizione è di €97, però è previsto l'iscrizione al tour, il pernottamento in hotel 3 stelle, cena per la serata di sabato, colazione la domenica mattina, pranzo la domenica, poi c'è tutto il coordinamento del tour e infine simpatici 10 gadget e ricordo alle partecipanti. L'iscrizione è a numero chiuso, per cui prenota prestissimo, anzi passa parola. Per informazioni contattare Laura, la sua email è laura.spidi@yahoo.it, oppure potete andare sul sito del gruppo lesbico Fuoricampo di Bologna, che è www.fuoricampo.net, e la loro email è info@fuoricampo.net. Turn back time. Turn back time. Ancora, sulla Gazzetta Ufficiale numero 115 del 19 maggio 2007 si trova pubblicata l'iniziativa dell'UDI, Unione Donne in Italia, del 18 maggio, deposito dal titolo della proposta di legge presso la Corte di Cassazione. Il 19 maggio 2007 l'Assemblea Nazionale autoconvocata ha deciso che la raccolta delle firme, ove possibile e certamente a Roma, partirà il 2 giugno 2007 e a nessuna sfugge il fortissimo valore simbolico della data. Questo prevede uno sforzo organizzativo notevole e le donne che intendono costituire un centro di raccolta devono comunicarlo a questo indirizzo di posta elettronica 50e50udinazionale@cumail.com. Sarà inserito nella mappa dei centri sul sito www.50e50.it. I centri che vogliono partire con la raccolta nel proprio territorio il 2 giugno con iniziative pubbliche, banchetti, sit-in eccetera, devono richiedere immediatamente i moduli alla sede nazionale oppure telefonare al numero dell'UDI 06 68 65 884. E andiamo a leggere sulla Gazzetta Ufficiale cosa c'è scritto. Allora, Corte Suprema di Cassazione, comunicato. Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio del 70, numero 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 maggio 2007, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 16 cittadine italiane munite dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive. Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede nazionale dell'UDI, Unione Donne in Italia, via Arco di Parma numero 15-00186 Roma. Ripeto il telefono della sede dell'UDI al quale potete chiedere ulteriori informazioni, che è 06 68 65 884. A questo punto mi fa piacere leggere il comunicato di adesione che ha preparato il Centro Femminista Separatista, di cui il CLR fa parte. Allora, il Centro Femminista Separatista, Coordinamento Lesbiche Romane e Collegamento Lesbiche Italiane aderisce alla proposta di legge di iniziativa popolare lanciata dall'UDI 50 e 50 ovunque si decide. Riteniamo fondamentale la presenza delle donne all'interno delle istituzioni, così come in tutti gli altri luoghi dove si decidono e si attuano i cambiamenti sociali che incidono sulla vita di noi tutte. Le donne hanno, o dovrebbero avere, uno sguardo diverso, un altro stile di vita, una differente capacità rispetto agli uomini di entrare in contatto diretto con le istanze del mondo. Queste diverse sensibilità dovrebbero essere una ricchezza per tutte. In realtà, nonostante i dettati della Costituzione, articolo 51, e di altri dispositivi legali della cosiddetta democrazia paritaria, la partecipazione delle donne viene contrastata e ridotta a semplice icona della democrazia degli uomini, che non intendono perdere nemmeno uno dei loro innumerevoli privilegi. La presenza di poche donne, spesso in punti decisamente non strategici, garantisce al potere un aspetto più moderno, meno feroce, ma contemporaneamente ne mette a nudo la falsità. Per questo siamo d'accordo sulla necessità di organizzare una democrazia fondata sulla cittadinanza duale, per consentire alle donne di essere presenti a tutti gli effetti sulla scena politica sociale. Questo può accadere, secondo noi, solo a condizione che sia possibile stringere un patto con le donne della politica fondato su elementi condivisi e scambi continui, Come abbiamo avuto modo di ribadire in più occasioni, la forma politica che ci sembra più incisiva e che quindi scegliamo come nostra non è già la rappresentanza, ma la delega che, per sua natura, prevede appunto un patto preciso, circoscritto e revocabile, continuamente sottoponibile a verifica. All'interno di questo patto, la fiducia ha un posto estremamente significativo. Ci fidiamo le une delle altre perché stabiliamo insieme di volta in volta cosa farà e dirà la delegata e perché in questo modo il contatto diretto con le altre, le deleganti, non sarà interrotto. Abbiamo mutuato questa pratica dalla nostra esperienza nel femminismo lesbo-separatista. Il movimento femminista degli anni 70, assunta coscienza di sé, ha elaborato un forte senso di estraneità nei confronti di un mondo che prende forma e si sviluppa avendo come unico referente l'universo maschile. Crediamo sia possibile esportare questa modalità di azione anche all'esterno, anche agli altri ambiti istituzionali. Per farlo occorrerà tempo, tenacia e grande senso di responsabilità. Ancora una volta tutto questo lo chiediamo alle nostre referenti principali, le donne, quelle dei collettivi, delle associazioni, del Parlamento e tutte quelle che vogliono mettersi nuovamente in gioco per cambiare il mondo. Centro Femminista Separatista. E siccome abbiamo la fortuna di avere ancora Monica qui con noi, le ridò il microfono. E chi ti molla? Allora, sì, per chi vuole sentire quanto è bella la poesia, rivivere l'emozione della poesia, unita tra l'altro anche al teatro, alla performance teatrale, invito tutte le donne che sono all'ascolto per giovedì 24, quindi dopodomani, alle ore 21 al Blue Joy, è organizzato dall'Arci Lesbica Romana, in via Miani 34, zona Piramide. Alle 21 io leggerò le poesie di donne celeberrime come Emily Dickinson, Sappho, Marina Kvetova, Anna Akhmatova, Anne Sexton, e una poetessa e attrice, Elena Falgheri, interpreterà le mie poesie con una performance teatrale. Il bello. Tutto con un po' di musica. Caterina, sei invitata. Grazie. Giovedì 24 alle 21 al Blue Joy di Roma, via Miani 34. Senti, è arrivato un altro messaggio che chiede come poter avere il libro. La casa editrice, per esempio. Scrivetemi, perché okay. In qualche modo vi aiuto io, perché con la casa editrice, che non pubblica solo me ma pubblica addirittura Alda Merini, certo. scusa se è poco se sono in compagnia di Alda Merini e Maria Luisa Spaziani. Io ricordo a queste persone che stanno scrivendo, che tra l'altro ringrazio moltissimo, sono arrivati tantissimi flash luminosi di trillini. Basta andare sul mio sito www.monicamaggi.it. Okay. Scrivetemi e io esaudirò i vostri desideri. Ok, va bene. Allora, per concludere questa nostra trasmissione di oggi, lasciamo andare la stupenda voce di Annie Lennox con Sweet Dream. Il coordinamento Lesbiche Romane ringrazia a mia voce, ma tutto il coordinamento Lesbiche Romane ringrazia Monica Maggi per questa sua partecipazione, è reciproca la cosa. C'è un'ascoltatrice che mi ha mandato una presa in giro, mi ha detto che io creo ambient. Non so Caterina, garantisco e confermo, crea ambient. Ecco, non ci provare mettere. Per credere. Ti prego, smettiamola qui. Allora, il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento a martedì prossimo. Purtroppo questa trasmissione non potrà andare in replica, perché questa doveva essere la replica, però insomma, se avete voglia di riascoltarla potete scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica, che è contatti@clrbp, ed eventualmente noi potremmo mandare un CD, insomma ci possiamo mettere d'accordo per farvi avere il CD con la replica di questa trasmissione. Salutiamo tutte. Buonanotte. E a martedì prossimo. Seven seas, everybody's looking for something. Sweet dreams are made of this.